24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Roberta Pellegatte, ben trovate a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi la norma sulle spiagge private che ha sollevato le critiche dell'Unione. Sul decreto che concede le spiagge italiane in concessione per 90 anni, Bruxelles si dice molto sorpresa perché il provvedimento non sarebbe conforme con le regole del mercato unico europeo. Parleremo anche delle sanzioni contro la Siria approvate dai 27 paesi dell'Unione Europea. Il pacchetto include misure restrittive contro 14 personalità della cerchia di Bashar al-Assad, escludendo per ora il presidente siriano, ma i 27 prevedono di procedere senza ritardi a nuove misure addizionali contro tutti i responsabili delle violenze, incluso il più alto livello di leadership. E ancora andremo al Festival dell'Europa, di scena oggi a Firenze e a Bruxelles, dove il Parlamento sarà aperto ai visitatori. Apriamo con le spiagge italiane. La proroga di 90 anni per gli stabilimenti balneari varata giovedì in Consiglio dei Ministri. La Commissione europea è molto sorpresa per la decisione presa dal governo italiano e contenuta nel decreto sviluppo. Chiederemo all'Italia delle informazioni, ha detto la portavoce del commissario al mercato interno Michel Barnier, che ha aggiunto: importante per la Commissione europea garantire la concorrenza negli spazi limitati. Molto sorpresi dal decreto italiano sulle spiagge, l'Unione europea reagisce così al provvedimento sulle concessioni marittime. Secondo Bruxelles non sarebbe conforme con le discussioni in corso sull'argomento tra l'Unione e le autorità italiane. Quello che ci inquieta, spiega la portavoce del commissario al mercato interno Michel Barnier, è che alla fine del periodo di concessione sembra quasi esserci il diritto automatico di ottenere il rinnovo. Nel decreto sviluppo di ieri la possibilità di avere spiagge per 90 anni se esistono chioschi e varie strutture turistiche. Da Roma risponde il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo: non abbiamo regalato assolutamente le spiagge ai privati, abbiamo fatto una norma di tutela del nostro territorio per evitare che vengano ad occuparle imprese straniere, laddove abbiamo una tradizione e una presenza storica di operatori italiani. Dall'opposizione però il Partito Democratico sollecita il governo a chiudere e non aggravare il contenzioso tra l'Italia e l'Unione Europea. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E su questo contenzioso Simone Spezia ha chiesto lumi all'economista Giuliano Noci, responsabile area imprese MIP, la Business School del Politecnico di Milano, secondo il quale le critiche sollevate dall'Unione Europea sono più che legittime. Ma direi che i 90 anni sono un'epoca quasi geologica, nel senso che i progetti strategici ormai sono monitorati nell'ordine di necessità di un ritorno nell'arco di pochi anni. 90 anni significa sigillare la possibilità di dare spazio alla libera concorrenza in un'area, quindi non occorre essere esperti giuristi per ritenere che l'Unione Europea abbia assolutamente ragione. Siamo, dal mio punto di vista, assolutamente fuori da quelle che sono le logiche del libero mercato e della libera competizione. C'è un altro tema sul quale volevo coinvolgerla, professore, e sono le parole del ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo. Dice: non abbiamo regalato le spiagge ai privati, perché poi c'è questo mito della privatizzazione, comunque una privatizzazione non è, insomma. Abbiamo fatto una norma di tutela del nostro territorio per evitare che vengano a occupare le nostre spiagge imprese straniere, dove abbiamo una tradizione, una presenza storica di operatori italiani. E ritorniamo sempre là, l'italianità. Credo che l'italianità non sia di per sé, cioè in un'economia globale che cosa significa l'italianità? Anzi, molte ricerche hanno evidenziato come in realtà l'Italia soffra di una strutturale carenza di capitali che vengono dall'estero, che possono arricchire sia da un punto di vista finanziario che in termini di contributi di idee il nostro paese e lo sviluppo economico della nostra penisola. Quindi io direi che l'italianità in questo momento è un falso valore, rappresenta una modalità forse per cercare di congelare le esise. Quindi io darei invece molto più spazio al libero mercato, auspicando che entrino investimenti stranieri e che portino un nuovo fermento, così come le nostre imprese devono guardare all'estero e non semplicemente esportare, ma andare a fare veri e propri investimenti strategici in quelli che sono i mercati che crescono di più. Voltiamo pagina adesso e andiamo in Siria, dove il regime continua a reprimere nel sangue i rivoltosi. E ieri l'Unione Europea ha messo a punto un pacchetto di sanzioni. Il venerdì della sfida siriana tocca la capitale Damasco, centri come Tafas, Banias, Homs. I migliaia si muovono, si riversano per le strade, si dicono pronti al sacrificio per la libertà, la dignità e l'orgoglio. Così si legge sul sito Syrian Revolution, megafono online degli attivisti antiregime, che conta ormai 170.000 utenti. In migliaia in tutto il paese per chiedere la fine del regime di Bashar al-Assad. e il regime reagisce, come fa da settimane, con la violenza delle armi. Dopo qualche ora arrivano notizie frammentarie di scontri nella capitale, manifestanti uccisi a Homs, dove entrano i carri armati, e gli altoparlanti intimano ai cittadini di non scendere per strada se non vogliono essere arrestati o puniti. Sempre a Homs, notizie non confermate riferiscono di scontri tra forze di sicurezza ed esercito. Dara, città simbolo della protesta, è ancora sotto assedio. Situazione esplosiva davanti alla quale i 27 paesi dell'Unione Europea hanno approvato un pacchetto di sanzioni contro la Siria, che include misure restrittive contro 14 persone della cerchia del presidente Bashar al-Assad, che per ora è escluso dalle sanzioni. Un compromesso, spiega un diplomatico, caldeggiato da Italia e Germania, per mandare un segnale forte al paese in rivolta, senza chiudere completamente le porte. Paola Nania, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dalla rivolta in Siria alla crisi libica, da un termine probabile alle operazioni contro Gheddafi, il ministro degli esteri italiano Franco Frattini. 3-4 settimane, tanto potrebbero durare le operazioni militari in Libia. Da Palermo il ministro degli esteri Frattini fissa così un arco temporale a suo dire realistico, mentre più ottimisti parlano invece di pochi giorni. Ma il problema per il responsabile della Farnesina non è la scadenza, bensì le modalità con cui lavorare affinché, dice, cessino le azioni di protezione militare il più presto possibile. Occorre intensificare la pressione sul regime di Gheddafi per poi far partire l'iniziativa politica. Questo è l'orientamento, dice il ministro, emerso ieri dalla riunione del gruppo di contatto che si è tenuta a Roma. Gli sforzi delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana e dei negoziatori, aggiunge Frattini, credo che abbiano riscontrato a Roma un grandissimo consenso. Il ministro è tornato anche sul tema dell'immigrazione, spiegando che adesso l'Italia è sicuramente meno sola in Europa. I prossimi consigli, annuncia Frattini, adotteranno il documento della Commissione Europea, che risponde esattamente alle richieste dell'Italia. Alessandra Schepi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il recente calo dei prezzi delle materie prime è una buona notizia, lo ha detto il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, aggiungendo che tutto ciò che contribuisce a calmare i prezzi delle commodity è positivo. E positiva è stata anche la chiusura delle borse europee, che ieri hanno terminato la seduta in netto rialzo. Francoforte ha guadagnato l'1,56%, Parigi l'1,33%, mentre Londra si è fermata a un più 0,96%. Anche a Milano indici positivi. Le borse europee hanno chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana grazie alla spinta arrivata dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti, con 244.000 posti di lavoro creati ad aprile. A Milano il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,98% e il FTSE All Share lo 0,95%. Bene in particolare Tenaris, che ha mostrato un progresso del 5,25% dopo aver registrato un primo trimestre brillante, con ricavi in crescita del 42% e un utile in miglioramento del 46%. Acquisti anche su Buzzi Unicem, più 4,41%, che ha approfittato della buona intonazione del settore delle costruzioni dopo i conti trimestrali di Italcementi. Nel settore bancario BPM si è messa in luce grazie alla promozione dell'agenzia di rating Standard & Poor's, male invece Enel, meno 0,93%, che ha pagato il crollo del prezzo del greggio negli ultimi giorni. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente della Commissione europea Barroso, tra i premiati della 14ª edizione del premio Galileo 2000 del Festival d'Europa a Firenze. Al presidente Barroso il premio per la politica scientifica e tecnologica, al primo ministro del Lussemburgo Juncker quello per l'economia, il premio per la pace al presidente della Croazia Ivo Josipovic. E proprio del Festival d'Europa di Firenze parliamo adesso, e anche di quello che si celebra a Bruxelles, dove oggi il Parlamento sarà aperto al pubblico. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto. È a queste parole che si attribuisce l'inizio del processo di integrazione del vecchio continente. A pronunciarle fu, 60 anni fa, Robert Schuman, colui che sarebbe diventato il primo presidente del Parlamento europeo. Una profezia azzeccata per chi la legge in un 2011 in cui il lento e faticoso cammino verso un'Europa unita è ancora ben lontano dal traguardo. Per celebrare la ricorrenza, le istituzioni europee aprono le porte ai cittadini. Ma anche Firenze festeggia in questi giorni l'Unione, con il Festival d'Europa organizzato da Comune, Regione e Istituto Universitario Europeo. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Commissione Barroso, il Vice Tajani, il ministro degli esteri italiano Frattini. Giuseppe Asta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura allo sport, la FIFA ha aperto un'inchiesta su circa 300 partite che potrebbero essere state truccate. La notizia è riferita dal Daily Telegraph per bocca del responsabile della sicurezza, Chris Eaton. I sospetti sono concentrati su alcune amichevole internazionali e su incontri tra squadre europee di club, tutte partite che sarebbero legate a scommesse fatte in territorio asiatico. Interrogando delle persone implicate nell'affare, abbiamo scoperto che i truffatori spendono fino a $300,000 per combinare il risultato di una gara amichevole internazionale, ha riferito Eaton. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto e una buona giornata da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.